si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno, buona domenica cari ascoltatori, ben ritrovati, si può fare il buongiorno del sabato e della domenica di Radio 24, oggi staremo insieme sino alle 11, vi ricordo subito i nostri contatti, se volete interagire in tempo reale con noi, il nostro account su Twitter è @sipuofare24, il mio @AleMaurizzi, siamo anche su Facebook, più avanti apriremo il numero verde per i vostri interventi, non prima di avere dato un'occhiata sulle prime pagine dei giornali, poi andremo a curiosare anche sull'inserto domenicale del Sole 24 Ore come ogni domenica e poi vi racconteremo un po' di storie per ridare così un po' di ottimismo non ottuso, speriamo. Cominciamo subito con una buona notizia. And now the good news. L'ottimismo non ottuso questa volta ci viene dall'Emilia Romagna, dove sono stati rinnovati i sostegni per i disoccupati, i sostegni al reddito per quanto riguarda la salute e le persone in cassa integrazione. Proroga dunque dell'esenzione del pagamento del ticket su visite ed esami specialistici per tutti quei lavoratori che hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione, in mobilità o anche con contratto di solidarietà, altrettante situazioni diverse ma che necessitano di un aiuto della regione. E quindi questo aiuto che è andato avanti dal 2009 proseguirà anche per tutto il 2014, quindi se non avete un lavoro in Emilia Romagna state tranquilli, almeno da questo punto di vista potete contare su un aiuto per quanto riguarda almeno le spese sanitarie, e questa sì che è una buona notizia. Oh, probabilmente ci saranno altri ascoltatori di altre regioni che diranno anche da noi, succede, anche la nostra regione lo fa. Bene, benissimo, questa era una notizia di questa settimana, la proroga in Emilia Romagna, ma se ci sono altre regioni, altre notizie, se ce le volete segnalare su Facebook, se volete scriverci alla mail, si può fare a radio24.it, insomma noi siamo lieti di dare spazio a queste tipo di segnalazioni che ci fanno comunque sperare, pensare bene, pensare positivo. Adesso andiamo sulle prime pagine dei giornali, dove insomma è più difficile andare a pensare positivo perché le notizie non sono mai molto belle. Però intanto c'è una bella intervista della stampa al Papa, quindi restate con noi perché tra poco vi sveleremo che cosa ha detto Papa Francesco al quotidiano di Torino. Però cominciamo con il Corriere della Sera, più tagli alle tasse sul lavoro, questa è notizia economica importante, riportata anche da altri quotidiani, fondo per il cuneo fiscale con la lotta all'evasione e meno spese. Che succede? Sono gli emendamenti del governo alla legge di stabilità, i risparmi ottenuti dalla revisione della spesa pubblica e dalla lotta all'evasione fiscale confluiranno in un fondo per abbassare le tasse sul lavoro e speriamo che questa cosa avvenga. Per ora si tratta di un emendamento del governo, c'è ancora un po' di tempo, poi la legge di stabilità diventerà per l'appunto legge e allora sapremo i contenuti veri della manovra. Sempre dal Corriere, politica, Renzi, da oggi detto io l'agenda del governo, va abolita la Bossi-Fini, sfida anche sui soldi ai partiti. Oggi all'assemblea a metà mattinata, tra un'ora e mezza circa a Milano, l'appuntamento di Matteo Renzi con l'assemblea nazionale del suo partito, dicevamo oggi all'assemblea cominciamo a dettare l'agenda del governo per il prossimo anno e poi si va avanti senza fermarsi, non sa cosa sia uno stop il segretario del PD Matteo Renzi e nemmeno una fermata. Sul fronte dei rimborsi elettorali Renzi rilancerà il PD, è anche disposto a rinunciare al finanziamento pubblico che verrà a patto che i grillini dimostrino altrettanta serietà sul taglio dei costi della politica. Ma non è finita qui, il segretario del PD chiederà pure l'abolizione della legge Bossi-Fini. Fotonotizia sul Corriere, studenti in corteo, scontri e feriti, a Roma arrestato il vicepresidente di Casa Pound, gli studenti e i centri sociali sono scesi in piazza a Torino e a Venezia, scontri sono avvenuti con la polizia, fumogeni, bombe carta, feriti e arresti. A Roma la manifestazione dei forconi, è stata sottratta una bandiera dell'Unione Europea dalla sede di rappresentanza e per questo è stato arrestato un leader di Casa Pound. Dal Corriere leggiamo anche il titolino Germania al via un'alleanza sotto il segno del dialogo, questa è una cosa importante dopo un po' di mesi di stallo e appunto di dialogo tra socialdemocratici e cristiano-democratici, nasce la grande coalizione promossa. Promossa dal voto degli elettori della SPD, inizia il regno di Merkel III. Il referendum della SPD lancia il governo rosso-nero. Poi vediamo un po' qualche nome, qualche faccia, i ministri che sono stati nominati in Germania. Intanto c'è l'ascesa della futura Merkel. Leggiamo: il nuovo governo tedesco ha il volto sorridente di una politica di razza, madre di 7 figli, Ursula von der Leyen, speriamo di aver pronunciato bene. Sembrava essere da tempo l'unica personalità cristiano-democratica in grado di raccogliere prima o poi l'eredità di Angela Merkel, ma la sua ascesa al Ministero della Difesa appare veramente come una sorta di investimento per il futuro. 55 anni, Ursula von der Leyen, appunto, sembra essere la donna che potrebbe raccogliere o raccoglierà il testimone politico della Merkel, che è giunta al terzo governo, probabilmente prima o poi la donna più potente del mondo potrebbe anche farsi da parte, ma insomma è presto, perché adesso intanto la notizia è che sta per debuttare il suo terzo governo, quindi questo è. Ancora c'è il leader socialdemocratico Sigmar Gabriel, che diventerà vice cancelliere e super ministro dell'economia ma anche dell'energia. Poi, con l'arrivo al Ministero dell'Ambiente di Barbara Hendricks, la 61enne tesoriera del partito SPD, organizzatrice delle consultazioni tra gli iscritti, sarà proprio il partito di sinistra a guidare il processo di transizione verso l'energia pulita, deciso in Germania dopo la catastrofe nucleare di Fukushima nel 2011. Queste sono le notizie che ci arrivano oggi dalla Germania. Si occupa del nuovo governo tedesco anche Repubblica, che dà spazio a un'altra figura, che è questa: il nuovo ministro per l'integrazione, una turco-tedesca, Haydan Özoguz, di origine appunto turca. Merkel via libera dalla base SPD, molte le ministre, l'integrazione va appunto questa signora turco-tedesca. Nel referendum il 76% degli elettori della SPD hanno approvato la grosse coalizione. Sempre su Repubblica ci si occupa naturalmente anche di politica italiana, soldi ai partiti, Renzi sfida Grillo, rinuncio subito al finanziamento se lui approva la riforma elettorale. Poi una inchiesta di Repubblica, una notizia che c'è solo su Repubblica: 1 miliardo per gli affitti, lo spreco dello Stato inquilino. Eh sì, perché lo Stato affitta molte sedi, per esempio per i ministeri, e spende 1 miliardo all'anno. Poi ci sono immobili dello Stato inutilizzabili, e quindi è ovvio, è facile fare 2 più 2 e dire: ma perché non mettiamo le sedi dei ministeri in questi immobili inutilizzati e non la smettiamo di pagare 1 miliardo all'anno di affitti? Forse non è tutto così facile come sulla carta, però ci si potrebbe provare. La notizia appunto è questa: i ministeri italiani anche in tempi di spending review occupano immobili in affitto contraendo debiti fuori bilancio, 1 miliardo di euro l'anno. Nel frattempo il demanio gestiva immobili inutilizzati di sua proprietà per un valore di vari miliardi. Leggiamo ancora su Repubblica, a proposito dei funerali di Nelson Mandela che si stanno concludendo proprio in questi minuti: Desmond Tutu, l'ospite indesiderato per l'addio a Mandela, il racconto dell'inviato Emanuele Audisio, le compagne della sua vita abbracciate, Winnie, l'ex moglie, che quando la bara di Madiba se ne va passa il braccio sulle spalle di Graça Machel, spero che si pronunci così, attuale consorte, che nasconde le lacrime dietro gli occhiali neri. Leggiamo ancora qualche passaggio del racconto dell'inviata di Repubblica, Emanuele Audisio, in Sudafrica. Ci sono anche delle persone che non ci sono, delle mancanze importanti che sono state sottolineate. Niente invito per il Dalai Lama, per esempio, visti gli ottimi rapporti commerciali tra Pechino e il Sudafrica. Niente accredito, anche se poi concesso, lo sappiamo perché stamattina c'è, per Desmond Tutu, 82 anni, arcivescovo anglicano, molto più che un fratello, anche di Nobel, perché anche lui ha avuto il Nobel, e suo vicino di casa a Soweto, al numero 8155 di Orlando West, dove Nelson Mandela ha vissuto fino al suo arresto e dove tornò la sera della sua liberazione, pensate, 27 anni dopo, sentendosi, diceva lui, solo in quel momento finalmente a casa, anche se poi subito dopo si trasferì da questo indirizzo e andò con la nuova compagna da un'altra parte. Dicevamo dell'intervista della stampa al Papa. Mai avere paura della tenerezza. Intervista con Papa Francesco. La Chiesa, se non sa abbracciare, diventa un corpo freddo. Andrea Tornielli racconta così: il Natale per me è speranza e tenerezza. Francesco racconta alla stampa il suo primo Natale da Vescovo di Roma, casa Santa Marta, martedì 10 dicembre ore 12:50. Il Papa ci accoglie in una sala accanto al refettorio. L'incontro durerà un'ora e mezza. Per due volte durante il colloquio dal volto di Francesco sparisce la serenità che tutto il mondo ha imparato a conoscere, quando accenna alla sofferenza innocente dei bambini e alla tragedia della fame nel mondo. Un paio di frasi celebri, o almeno importanti, significative di questo incontro della stampa con Bergoglio: il rapporto tra Chiesa e politica può essere coinvolgente solo se serve ad aiutare il popolo. Quando non avviene questo, inizia un connubio col potere che imputridisce la Chiesa. Imputridisce la Chiesa, pensate. Quindi il Papa sottolinea ancora una volta che la Chiesa, se si mescola con la politica, non al fine di far star meglio la gente, di aiutare il popolo, è una forma di imputridimento. È una frase importante, e poi tutti si domandano se ci saranno anche delle conseguenze, che già ci sono nell'organizzazione della Chiesa e della finanza, per esempio Vaticana, se ci saranno con ancora maggiore forza. Poi, a proposito del nemico storico della Chiesa, il comunismo e il marxismo, dice: l'accusa di marxismo non mi ha mai offeso, perché nella vita ho conosciuto tanti marxisti buoni come persone. Poi però precisa: l'ideologia marxista è sbagliata. Quindi, se volete, sulla stampa oggi le parole del Papa in questo colloquio con il quotidiano torinese. Dalla prima pagina invece del Sole 24 Ore riprendiamo la notizia economica: gli emendamenti del governo alla legge di stabilità, pronto il fondo taglia cuneo, pari destinazioni a imprese e lavoratori, limature nella notte. È pronto l'emendamento, scrive il Sole, del governo alla legge di stabilità per la costituzione del fondo taglia cuneo, che sarà alimentato dai risparmi di spesa e dalla lotta all'evasione, cioè i soldi che si riusciranno a prendere col tagli alla spesa, col piano Cotarelli, cioè di spending review, e anche dalla lotta all'evasione fiscale, andranno ad alimentare questo fondo per diminuire il cuneo fiscale, cioè le tasse sul lavoro, sui lavoratori. Quindi le imprese pagheranno delle buste paga più leggere, i lavoratori avranno invece un netto leggermente più alto. Tutto dipende da questi risparmi e da questa lotta all'evasione che si riuscirà a capitalizzare nel 2014. È comunque questa sicuramente una buona notizia, credo, per tutti. E allora, c'è chi la vede diversamente, però per esempio Libero mette in evidenza che cosa? A proposito di misure economiche in legge di stabilità: tassate le mense dei poveri. La legge di stabilità le equipara ai ristoranti, perché le mense dei poveri rischiano di essere tassate, scrive Libero, dal prossimo anno, alla stregua dei ristoranti di lusso. Per fortuna che il forum del terzo settore se ne è accorto, scrive Antonio Castro. Cosa succede? Succede che, come ha detto Pietro Barbieri, portavoce del forum del terzo settore, rischiano di pagare l'IMU le mense per i poveri. Riteniamo inaccettabile, riporta Libero le parole del portavoce del forum del terzo settore, che in una mensa sociale si debba pagare l'IMU alla stregua di un ristorante, che uno spazio dedicato ad attività educative o ludico-sportive debba essere considerato come una struttura che fa attività di tipo commerciale. O è un errore questa cosa dell'IMU per le mense dei poveri, o è la solita svista, o è qualcosa che andrà corretto, oppure notizia che riporta solo Libero, ma evidentemente qualcosa ci sarà nella legge di stabilità che non va e che va corretto. Ci fermiamo qua per questa prima parte di Rassegna Stampa, restate con noi, adesso facciamo una piccola pausa per il traffico, poi torniamo, andiamo a curiosare sull'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale, a tra poco. Buongiorno, per me per salvare l'Italia è molto semplice, basta mettere una tassa sul meretricio, si levano tutte le donne dalle strade, si fa come Svizzera, ci sono dei locali, e con le tasse che si tirano fuori da questo servizio diventiamo ricchi del mondo. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. E come anticipato, andiamo come ogni domenica a quest'ora a incuriosirvi, a ingolosirvi cinema, storia e scienza. Dico solo questi tre capitoli oggi dall'inserto culturale del Sole 24 Ore. Il domenicale ritroviamo Armando Massarenti, che ne è curatore e responsabile, nonché direttore. Direttore, buongiorno. Buongiorno, buona domenica a tutti. Allora, io ho detto tre capitoli, così sono le chicche con cui oggi vogliamo un po' mettere voglia di andare a curiosare tra le pagine del domenicale. Armando, da cosa vuoi cominciare oggi? Ma diciamo, partiamo dalla copertina. Sergio Luzzatto, che è uno storico importante, che recensisce un altro storico molto importante di questo paese, che è Adriano Prosperi, che ha appena pubblicato un libro intitolato Delitto e Perdono. Che cosa descrive questo libro? Va un po' sul terreno che era già stato quello di Michel Foucault, Sorvegliare e Punire. E di cosa parla? Parla di condannati a morte, sostanzialmente, tra il XIV e il XVII secolo. E un particolare aspetto molto interessante, insomma, non, di cui non sentiamo molto spesso parlare, anche perché non è un argomento allegrissimo, ma è quello di come si comportavano questi condannati a morte, di come veniva organizzato da parte della Chiesa, che li accoglieva dopo che il braccio secolare li aveva condannati, e cercava di confortarli e in qualche modo di perdonarli, a patto però che confessassero e che si dichiarassero assolutamente pentiti. Ecco, la cosa bella di questo articolo, che racconta diverse storie, ci dà quindi un bel esempio di come poi Adriano Prosperi tratta il tema nel volume, è che vengono raccontati dei casi in cui invece alcuni condannati a morte non volevano assolutamente ammettere le colpe, anzi si dichiaravano innocenti e quindi non rigettavano anche tutta questa macchina delle perdonanze e dei conforti che venivano largite loro dalla Chiesa. Un capitolo interessantissimo della storia moderna, tra l'altro con episodi che vengono richiamati, come quello famoso di Giordano Bruno, che venne giustiziato nel 1600, a cui avevano addirittura bloccato la lingua per impedire che parlasse in maniera blasfema. E poi il pezzo si chiude con un qualche cosa di cui poi parleremo il prossimo anno, soprattutto perché saranno i 250 anni di un'opera importantissima, che è dei Delitti e delle Pene. E il pezzo di Luzzatto si chiude molto significativamente con il fatto che persino Pietro Verri, che pure appunto aveva consigliato a Beccaria di scrivere questo trattato che avrebbe cambiato tutto dal punto di vista appunto della pena e della pena di morte, della tortura e di tutti questi aspetti importantissimi, quindi è un inizio della civiltà in cui viviamo oggi, e notava che persino Pietro Verri si stupiva ed era scandalizzato dal fatto che un volteriano sacrilego, Carlo Sala, avesse respinto l'opera di Misericordia dei confratelli Meneghini di San Giovanni Decollato. Quindi insomma, storie molto, molto interessanti, molto intriganti, insomma, della la storia italiana al suo massimo, certo, livello. Sembrano cose lontanissime nel tempo, e per fortuna queste condanne a morte lo sono, però sono nel nostro DNA, nella nostra storia, ed è giusto conoscere, sapere e ricordare anche con libri come questo. Armando, scienza e cinema, io ti dico altre due paroline. Sì, sono appunto delle scelte tra i tantissimi argomenti che trattiamo in questo numero. Ma il cinema, volevo ricordare il pezzo di Roberto Escobar, uno dei nostri critici cinematografici, che parla di un inedito soggetto neorealista di niente meno che di Fellini, o perlomeno sicuramente attribuibile a Fellini in alcune sue parti, che è stato trovato in un baule di Tullio Pinelli, colui che aveva scritto con lui La dolce vita. La cosa interessante dell'articolo di Escobar è la sottolineatura di come questo soggetto, che parla di Celestina e Carmine, che sono due poveri napoletani che sognano di andare a New York, e poi in questo sogno arrivano davvero a New York, in Little Italy, eccetera. Insomma, siamo in pieno neorealismo, ma la cosa più bella, più interessante di questo articolo è sottolineare il modo in cui lavoravano questi sceneggiatori, cioè il modo in cui sono stati trovati questi fogli che sono pieni di cancellature, che hanno dietro altre sceneggiature. E quindi sottolinea Escobar, si trattava di vere e proprie botteghe di sceneggiatura, del nostro cinema, insomma, con un confronto molto chiaro con le botteghe. Oggi, Armando, utilizzando il computer, diciamo, le bozze come concetto forse non esistono più, non si ha l'ultima versione, no? In genere pulita, corretta. L'ultima versione, sì, ma soprattutto si perde quel lavoro che, e questa è la vera cosa interessante, lui dice quel lavoro, sì, di equipe, in cui contava poco l'autorialità, cioè contava poco chi aveva fatto la cosa, c'era invece un gusto proprio di lavorare ogni giorno, un lavoro quotidiano, con moltissimi lavori che alcuni di sarebbero diventati dei capolavori, per esempio appunto La dolce vita, e diceva Pinelli che Fellini quando ci lavoravano pensava di stare per fare una cosa normalissima delle tante che stavano facendo, quindi potevano diventare dei capolavori, ma il bello era il piacere di lavorare in quel modo lì, di lavorare nella quotidianità. Quello che oggi, con un'espressione inglese, diciamo il brainstorming, quando insomma si mettono a confronto e si fanno fruttare, crescere le idee di gruppi, dei team che lavorano su progetti così intellettuali. Scienza, uomo e donna, questo è un derby sempre interessante, Armando. Beh, questo devo dire, non è un argomento nuovo, ma è trattato in maniera molto nuova da Luca Pani, il direttore dell'AIFA, che avevamo già avuto peraltro in trasmissione, e che ci sta deliziando con queste sue osservazioni che sull'evoluzione, insomma, sono tutti articoli che in qualche maniera hanno a che fare con la teoria dell'evoluzione, in questo caso il confronto tra il cervello maschile e femminile, che oltre ogni indugio del tipo del politically correct, lui ci dice chiaramente che le diversità fisiologiche ci sono, riguardano poi il peso, insomma, dei due cervelli nelle diverse età. È molto ironico e molto riesce a trattare un tema così delicato in maniera molto ironica, per esempio quando scrive tanto per essere subito chiari, il quoziente intellettivo, per quanto valga misurarlo, è identico nonostante in relazione al genere a cui appartiene. Possiamo pensare che questa affermazione non vi renda giustizia, continuate pure a leggere e appunto rendetevi conto di quali sono le differenze, ma una delle differenze più importanti è che i maschi hanno più materia grigia, le donne più materia bianca, cioè in materia grigia c'è il numero di cellule, materia bianca densità di con delle connessioni, e tra i vari aspetti che ci descrive Luca Pani, alla fine scopriamo che gli uomini si orientano molto più facilmente, le donne invece amano soffermarsi nei dettagli, in una serie di dettagli. E quindi, finale dell'articolo, anche questo molto divertente, gli uomini sono quindi facilitati nell'essere puntuali, nell'orientarsi in una grande città, ma le femmine sono più brave nel concentrarsi su un dettaglio come il pianto del proprio bambino e dimenticare qualunque altra cosa. E questa è un'immagine con la quale potremmo anche salutarci, e così infatti ci salutiamo, grazie ad Armando Massarenti, ci ritroviamo domenica prossima naturalmente. Queste sono le sollecitazioni stimolanti dal Sole 24 Ore, il domenicale, lo trovate in edicola. Noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, torniamo subito dopo, apriremo anche il numero verde 800 24 0024, tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno, ben ritrovati, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, eccoci qua, 800 24 0024, il numero verde per poter intervenire in diretta, cominciate subito a prenotare i vostri interventi, se volete continuare a raccontarci che cosa ha reso bella la vostra settimana, come abbiamo fatto anche ieri, va benissimo, anche se oggi il contest è la vittoria del Smart Box, una Smart Box per due persone, con titolo Addio Stress, quindi promettiamo relax per due persone, ma anche due biglietti per una mostra del FAI a Varese, che adesso vi andiamo a raccontare, a chi indovinerà il personaggio della settimana, che questa settimana è una coppia di personaggi, un personaggio che ci ha fatto sorridere e un personaggio che ci ha fatto piangere, protagonisti per una qualche ragione di questa settimana che ci siamo lasciati alle spalle. 800 24 00 24, chiamate se volete, oltre che per commentare quello che sentirete e avete sentito già fino ad ora in onda, anche per rispondere a questa domanda, la coppia di personaggi della settimana. In palio la Smart Box per due persone e i biglietti per una mostra del FAI a Villa Panza, che vi andiamo a raccontare. All'origine delle sensazioni, Robert Irwin e James Turrell a Villa Panza è il titolo della mostra di carattere internazionale, in programma fino al 2 novembre del 2014, che il FAI ha allestito insieme al Los Angeles County Museum of Art a Villa Panza di Biumo, a Varese. Un progetto espositivo realizzato anche con la collaborazione del Guggenheim Museum di New York, del Getty Research di Los Angeles e dell'archivio Panza di Mendrisio, e curato da Michael Govan, direttore del Los Angeles County Museum of Art, e da Anna Bernardini, direttore di Villa e Collezione Panza. Ce ne parla Marco Magnifico, vicepresidente esecutivo del FAI. La mostra di Villa Panza è una cosa diversa da andare a vedere una mostra, è un'esperienza. Questi due straordinari artisti, che non vorrei esagerare, ma oggi James Turrell e Robert Irwin sono in California e negli Stati Uniti, un po' come erano Michelangelo e Raffaello nella Roma di Giulio II, cioè sono due titani, sono i due grandi creatori dell'arte ambientale, che è stato un movimento nato negli anni 70 e che ancora tuttora loro impersonificano come i più importanti di questo filone di arte. In questa mostra loro due sono due demiurghi, come dire, che usano strumenti divini per creare la loro arte, perché loro usano la luce e lo spazio, che sono tipicamente due strumenti di Dio, perché Dio all'inizio della creazione del mondo a un certo punto separa la luce dalle tenebre e crea gli spazi, e loro lavorano con questi strumenti. Quindi in un certo senso in questa mostra non si vede niente, perché a parte tre oggetti di Robert Irwin che però sono oggetti che lui fa di tutto per far sparire nelle prime tre sale, poi sono tutte installazioni fatte di luce e di spazio. Quindi in un certo senso non è quello che si vede che fa la mostra, ma è come si vede quello che c'è. Quindi ecco, la mostra si chiama Aesthesis, all'origine delle sensazioni. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Say dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught in a centuries, anxiety. Yes, it plays on him. Watching afternoon repeats in the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up out of his bells in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. È stata, insomma, la settimana, lo sarà ancora, della protesta dei furconi nelle piazze italiane, ne abbiamo letta di ogni, ma è stata anche la settimana delle proteste, qualche giorno più in là, della Coldiretti a difesa del Made in Italy nel mondo alimentare. Il Made in Italy lo si può difendere chiudendo le frontiere, lo abbiamo già detto, o anche invece rafforzando la nostra capacità di produrre, promuovere e insomma far crescere la nostra agricoltura. C'è tutto un filone di giovani agricoltori in Italia e anche sorprendentemente per esempio a Milano, che ha un'ampia zona agricola. E allora oggi noi vi vogliamo raccontare la storia di Dario Galli. Buongiorno. Buongiorno. Dario Galli, 35enne, da quanto tempo dedito all'agricoltura e alla produzione dello zafferano, oltre forse a fare anche altre cose, Dario? Da due anni produco zafferano e in realtà a livello appunto di impresa agricola, invece sono 8 anni che mi dedico alla coltivazione della pianta. Ecco, perché poi uno dice lo zafferano? Certo, il risotto alla milanese si fa con lo zafferano. Assolutamente. Però lo zafferano sì. Fortunata è stata forse quella. Ma lo zafferano tradizionalmente da dove lo importiamo, se lo importiamo? Lo importiamo dall'Iran, dall'Afghanistan principalmente, sì. Parliamo del 95% del prodotto. Sì, ed è un prodotto che ha però anche un discreto valore, cioè ne basta poco e non costerà magari moltissimo, ma rispetto a quello che è il peso, poi la concentrazione, insomma è un prodotto che ha un certo valore e tradizionalmente lo importiamo. Tu a un certo punto invece hai pensato di produrlo tu. Esatto, quello che abbiamo fatto, abbiamo deciso di estendere quello che era una cultura che è partita nel nord del nonno e di cercare di fare una produzione e di viverci anche. C'è tantissimo lavoro dietro, pensate che come per produrre un grammo sostanzialmente ci vuole quasi un'ora di lavoro durante tutto l'anno, e però dall'altra parte appunto ci permette di pagare dignitosamente noi e le persone che lavorano con noi. Cioè scusa, per produrre un grammo di zafferano ci vuole un'ora di lavoro in sì. totale o al giorno? No, diciamo in totale, da quando iniziamo, quando sì. piantiamo la pianta, quando poi abbiamo consegnato il vasetto a chi userà il nostro zafferano, ci è andata dentro circa un'ora di lavoro. Beh, considerando che poi non ce ne vuole moltissimo per condire i piatti, non va neanche tanto male, insomma. No, per funzione viene se ce ne volesse un chilo sarebbe un pochino più complicato, naturalmente. E che tipo di zafferano intanto tu produci nella tua terra, Dario? Allora, noi facciamo zafferano in stimmi. Sì. Che è la maniera più pura di presentare il prodotto perché conserva tutte le caratteristiche organolettiche che la spezia ha. E esiste anche naturalmente lo zafferano in polvere che è lo stesso zafferano macinato. Sì. E dove coltivi questo zafferano? Sono terre in affitto o sono terre che tu e di famiglia o che avete comprato? Sono in usufrutto da un privato che le ha messe sì. a disposizione in cambio della manutenzione sostanzialmente del fondo, ecco. Era un fondo non utilizzato. Ecco, vedi, perché questa è una cosa di cui noi per esempio parliamo spesso e incentiviamo, per esempio in Toscana da qualche giorno è partita la Banca della Terra, dove la regione concede a canoni molto bassi, anche 100-200 euro all'anno, quindi davvero un prezzo irrisorio, terre abbandonate, pubbliche e private, a chi le cura, ne fa manutenzione e ne fa dei progetti, come è successo a voi. Ma questo terreno in concessione è frutto di un accordo con un privato o c'è la mediazione di una qualche istituzione che una volta tanto diciamo dà una mano e sostiene il giovane agricoltore, Dario? No, sono accordi con i privati assolutamente, sì. È una questione di appunto compaesani che avevano terreni e noi l'esigenza di avere un terreno ci siamo messi d'accordo. E dove si trova il terreno? A Varedo, è in provincia di Milano, a 15 km dalla città. E come hai iniziato tu a pensare a questa prospettiva? Perché nella vita tu avevi studiato e ti stavi preparando a una carriera professionale in un altro campo. Sì, io sono architetto, così come anche un'altra socia, invece il terzo ingegnere, però appunto un pochino è nata da sé, crescendo questo bulbo nell'orto, invadendo l'orto, abbiamo pensato di estendere la produzione, poi pian piano è stato un volano, quindi poco a poco è diventata sempre più grande ed è stato un pochino la stessa coltivazione a prendere la prevalenza sul tempo e sugli impegni della nostra vita. Io ho detto 35 anni, ma invece stavo leggendo l'articolo, forse tu non hai neanche 35 anni. Qualcuno meno. Qualcuno meno. Forse è un altro socio che ha quell'età. Sì, Guido. Quanti siete? Siamo in tre soci e poi appunto piano piano degli amici ci stanno aiutando e cerchiamo di integrare nel progetto come possibile, perché l'esigenza di manodopera è tantissima. Sì, e al momento fate tutto da soli o vi fate aiutare da qualcuno? No, adesso stiamo gestendo tutto da soli, appunto dalla coltivazione fino alla vendita. Sì. È anche una cosa interessante curare tutta la filiera perché permette di migliorare il prodotto con i consigli di chi lo usa e dall'altra parte di saperlo spiegare fino alle cose più basilari, più legate alla terra, al terreno. Come ti senti, Dario? Cioè una sorta di mosca bianca rispetto ad altri coetanei che fanno magari altre scelte, che vivono più al ritmo della città, o magari tu stesso, pur facendo questo lavoro, riesci a sentirti perfettamente integrato nel mondo di oggi? Una professione, questa, insomma, del lavoro in campagna che fa parte della nostra tradizione, ma non sempre del nostro presente oggi, no? È difficile gestire anche una vita cittadina, una vita sociale, naturalmente, perché la campagna ha dei suoi ritmi. Dal punto di vista invece dell'integrazione con altre persone, della vicinanza con giovani che fanno altre cose, è forte, perché proprio le amicizie a Milano ci permettono di insomma avere un ponte costante con la città e quindi di raffrontarci e di portare anche la cultura cittadina in quello che noi facciamo. Quindi potrebbe essere, non so, il packaging piuttosto che concetti di vita. le arti del marketing, le arti del marketing e della comunicazione, che vengono dalle, dal cuore delle università milanesi. E invece, ripeto, come siete guardati voi dai vostri coetanei? Cioè, quando tu racconti a magari a qualcuno che non ti conosce quello che fa, immagino, ah, che bello, grande interesse, ma a che ora ti alzi la mattina alle 6? No, non lo farei mai, cose di questo genere. Esatto, l'interesse è altissimo, la curiosità pure, però nel momento in cui si parla di soprattutto di orari di risveglio piuttosto che di fatica fisica, molto spesso anche persone che si offrono a dare una mano fanno un passo indietro. È anche vero che però dall'altra parte ci sono tanti ragazzi che dopo aver parlato con noi hanno iniziato a fare delle loro piccole coltivazioni, quindi stanno partendo altri progetti di coltivazione o dello zafferano o di altri prodotti. Ma non sogni a volte di avere un lavoro normale, che ne so, di alzarti appunto la mattina anziché alle 5, alzarti alle 7 o alle 8, andare in ufficio, entrare alle 9, laddove magari questo è possibile, fare una vita più con abiti borghesi, una vita di questo tipo, oppure quello che fai al momento ti soddisfa e non lo cambieresti con niente altro, Dario? Quello che faccio al momento mi soddisfa, però devo dire che il tempo fisso ogni tanto mi passa per la testa come una soluzione sicuramente più tranquilla, perché... È inutile negarlo, ci sono dei vantaggi nell'avere certo un lavoro, un rapporto a tempo indeterminato, fisso, tranquillo, stabile, con lo stipendio alla fine del mese, piuttosto che fare l'imprenditore. Cosa è scattato in voi, in te, e cosa ancora ora ti motiva invece di positivo in quello che fai a continuare a rischiare, a scommettere, a investire molto tempo in questa attività? Ma sicuramente la passione, nel senso che è chiaro che nel momento in cui stai facendo ricerca costante, la stessa ricerca ad alimentarti, quindi anche se non ci sono dei ritorni immediati, riesce a darti uno sguardo, riesce a darti quell'emozione che tiene in piedi, insomma, la persona nel momento in cui magari non ci sono invece le economie, e questo principalmente. Proteggere, tutelare, sostenere, lo dovrebbero fare le istituzioni, lo dobbiamo fare anche noi con il nostro abbraccio, i nostri giovani agricoltori italiani, che sono tanti, come Dario Galli, che abbiamo appena sentito. Ricordiamo anche il vostro sito. Allora, www.zafferanami.it. Sì. E oltretutto abbiamo in previsione un'iniziativa a Milano, a sorpresa, da metà settimana prossima saremo con una bicicletta e lo zafferano in giro per il centro. Vedete che poi la sinergia con la fantasia e con il marketing tipici milanesi si sposa e va a braccetto con queste nuove attività agricole. Siamo in provincia di Milano, il tuo terreno, provincia di Milano? Allora, il terreno è esattamente sul confine, quindi siamo tra Milano e Monza Brianza. Voi siete a nord, tra l'altro a sud di Milano c'è un parco agricolo enorme, infatti la provincia di Milano è una delle più agricole forse d'Italia, e pochi lo sanno, è una curiosità questa. Grazie a Dario Galli di Zafferanami per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a voi, buona mattinata. Grazie, buona domenica. E questa era la storia, insomma, l'avete sentito, si può proteggere il Made in Italy, la nostra agricoltura, non solo chiudendo le frontiere, ma anche sostenendo iniziative e facendone sempre di più, come quella del nostro amico Dario Galli, che produce lo zafferano, se avete sentito, in provincia, al confine tra la provincia di Milano e Monza. Non ci aveva pensato quasi nessuno fino ad ora. Abbiamo forse già una chiamata all'800 24 0024, rompiamo il ghiaccio con gli ascoltatori questa mattina. Franca da Torino, buongiorno. Buongiorno. Lei buongiorno. Su che cosa voleva intervenire? Rispondere al contest, i personaggi della settimana? Sì. Sì. È una coppia di personaggi, abbiamo detto... uno ci ha fatto sorridere, uno ci ha fatto piangere. Secondo lei chi sono, di chi si tratta? Sì. E allora, quello che ci ha fatto sorridere è Grillo. Quello che ci fa piangere è Berlusconi. E questo è anche molto soggettivo, perché potrebbe quasi anche essere il contrario. Beh, volendo sì, fanno ridere e piangere allo perché Grillo è un comico, però adesso fa il politico, a chi non piace magari fa piangere, e Berlusconi è un politico che ama la battuta, sì. L'altro è al contrario. Va bene, però perché questa settimana secondo lei sarebbero loro i due personaggi? Sono loro che si stanno sforbiciando. Sforbiciando, cioè c'è una singolar tensione tra Grillo e Berlusconi. No, non sono loro i personaggi della settimana, Franca. Grazie per aver chiamato comunque al numero verde 800 24 00 24. Riprendiamo tra pochissimo a sentire i vostri interventi. La coppia dei personaggi legati tra loro da una vicenda di questa settimana. Uno ci ha fatto sorridere, uno ci ha fatto piangere. Si vince una smart box per due persone e biglietti per la mostra del FAI a Villa La Panza in provincia di Varese. Facciamo una pausa, torniamo tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno a Carlo Gabardini, che sta cercando di alzare l'audio della cuffia perché non sente un tubo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua, Carlo, buongiorno. Allora, hai sentito? Qua produciamo Zafferano in provincia di Milano. Bellissimo, sono molto contento perché adoro lo Zafferano. Moltissimo. Invece mia mamma mi fa sempre il risotto con la zucca. Cioè, da quando arriva la zucca, praticamente per tre mesi c'è solo zucca. D'inverno c'è la zucca, è un prodotto non strano, e lei ti riempie. È ottimo, giustamente. Sì, però dopo, però è più buono. A me piace di più il risotto allo Zafferano, se posso fare questo endorsement nei confronti dello Zafferano. Tra l'altro, adesso che sai che si produce anche insomma a Milano, è perfetto, potrei cominciare. Ma non cambia nulla, perché per la volta del no, cielo. È che mia però mamma le zucche riesce a seminarle, quindi non ne costano niente. Quindi, secondo me, continuerà con la zucca per sempre, mentre lo Zafferano è carino. Forse producendolo a Milano il prezzo si abbassa. Allora, intanto dubito, questo è interessante, però il prezzo si abbassa a Milano o costa no, come so, via della spiga? No, perché non c'è l'importazione, qualche cosa in meno dovrebbe costare. Ah, forse sì, però te lo portano solo in taxi, magari. Può darsi. Allora, il nostro contest, abbiamo già dato un indizio. Sì. Un indizio che tra l'altro hai ideato tu. Ti ringrazio. Per la nostra coppia di personaggi della settimana. Abbiamo scelto una coppia, perché ogni settimana, la domenica, scegliamo un personaggio per assegnare i premi del contest, che questa settimana sono una smart box a Dio Stress e due biglietti per la mostra del FAI di Varese. Però c'era un fatto che lega questi due personaggi. Una coppia, quasi una coppia di fatto, si può dire. No, forse no, non si può dire. Non così tanto. No, non è un indizio questo, non è un indizio. Ricordiamo l'indizio. Uno dei due ci ha fatto ridere e uno dei due ci ha fatto piangere. Benissimo, allora sentiamo subito un'ascoltatrice. Molto volentieri. Mimma dalla provincia di Milano, che vuol darci forse la risposta. Buongiorno. Buongiorno, ma buongiorno. Io pensavo Matteo Renzi e Letta, però ecco, non riesco a... Beh, intanto ci deve dire chi secondo lei ci ha fatto ridere e chi dei due ci ha fatto piangere. Ma forse... È difficile. Ecco, questo non avevo sentito il suggerimento, appunto, e quindi forse ho sbagliato. Quale suggerimento? Perché nessuno dei due, in effetti, ha fatto ridere o ha fatto piangere. Beh, insomma, dipende. Beh, sicuramente volendo. Letta con la legge di stabilità forse ha fatto piangere, per esempio, tutti i forconi. Esatto, potrebbe Renzi, essere. E Renzi invece fa le battute ogni tanto. Fa le battute, esatto, ridere, e non, fa un po' il simpatico. Però non era questa. Sono molto convinta adesso che mi ha detto. Mimma, non era questa la risposta. Non era questa. No, purtroppo no. Infatti, non era abbastanza forte il far ridere e il far piangere. Non era questa la nostra coppia, però devo dire che la risposta era interessante. Luigia, dalla provincia di Venezia, sentiamo Venezia, anche. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto, complimenti a tutti voi, proprio a tutti, indistintamente. Grazie, grazie. Tutti indistintamente, tutti, che adesso tutti. Andiamo su tutti i piani a ringraziare piano, tutti. Il colore del 24 ore, ci stanno ascoltando, esatto. Le donne delle pulizie, tutti. Certo. E, niente, secondo me che mi ha fatto piangere Mandela, assolutamente. Certo. E poi niente, sul palco delle manifestazioni in occasione del funerale, quell'interprete dei segni per sordomuti, quell'interprete che si è salito sul palcoscenico non si sa poi come, ed sì, era in realtà una persona anche con problemi. Sì, sì. Però quello faceva ridere. Sì. Corna. Beh, sì, ha fatto anche molto ridere. Ha fatto anche molto ridere. La risposta è veramente ottima. È bella, molto dirlo. Bella. Purtroppo non è quella giusta. Però io quasi, cioè, vorrei assegnare un premio alla signora. Diciamo che perché? Se non la, perché ci abbiamo pensato, possiamo dirlo. Sì, possiamo dirlo. L'ipotesi Luigia era proprio l'ipotesi che avevamo era proprio di prendere come personaggio la settimana l'interprete o la coppia. Mandela onestamente ci sembrava troppo facile, è sicuramente il personaggio assoluto di questa settimana, o forse di queste ultime due settimane, perché si può dire che i funerali di Mandela, non so, finiscono, quanti anni dureranno? Oggi finiscono ufficialmente, però sembrava che non finissero mai. Luigia, beh, complimenti, perché appunto se nessuno ci dà la risposta esatta, vincerà lei, la richiamiamo ad honorem, anche se non è la risposta giusta per il momento. Allora, tu hai preparato qualcosa per noi questa mattina? Certo che sì, sono uno stagista, ma organizzato, diciamo, lavoro anche la domenica. Bene, sentiamo. Allora, la prima notizia, diciamo, vanno il nostro in bocca al lupo a Angela Parlante, che è la praticante più anziana d'Italia e che puntuale si è presentata all'esame per diventare avvocato. Lei è laureata in giurisprudenza. E cosa c'è di strano? Ha 79 anni. Ah! E quindi per esattamente, ed è la sesta volta che ci prova. Lei si è laureata nel 2000, ha fatto la praticante in uno studio e dopo gli anni, diciamo, di praticantato, adesso vuole assolutamente diventare avvocato. Ha avuto anche un piccolo malore durante l'esame, quindi le facciamo in bocca al lupo. Non si sa ancora come sia andato l'esame, però ha portato a termine l'esame, perché pare che quelli del 118 che sono stati chiamati dell'ambulanza le hanno detto: signora, vuole tornare a casa? E lei ha detto: siete matti, sono al mio settimo esame per diventare avvocato e voglio farlo. Questa notizia è una buona notizia, soprattutto per mia mamma, che siccome in casa mia tutti hanno sempre voluto che io facessi l'avvocato, volevo dire che c'è ancora speranza. È quasi una storia di ritardo scolastico, però, perché la signora quando ha cominciato non era tanto anziana, insomma, era quasi giovane. Beh, insomma, 15 anni fa. Esatto, sì. Ci ha messo un po', però. Ci ha messo un po', però poi ha fatto. No, complimenti. Era già in pensione, ha fatto tutto il suo iter. Fare una cosa così a quasi 80 anni vuol dire avere un grande spirito. Complimenti. Brava signora, che bello. E io spero di farcela anch'io. La seconda notizia, diciamo, in una cittadina, ci spostiamo in una cittadina dell'area pedemontana reggiana, che è teatro di una vicenda boccaccesca. Diciamo, da una parte c'è una coppia che nella propria intimità è piuttosto rumorosa, diciamo, le loro effusioni sono molto rumorose. Non ci fosse qualcosa su questo anche oggi. Dall'altro lato c'è il classico vicino curioso che ascolta queste effusioni molto rumorose e tutti i giorni scende al bar e racconta e dice: voi non sapete che cosa fanno i miei vicini, dovreste sentire. Tanto che quelli del bar a un certo punto gli dicono: dovremmo sentire, invitaci e sentiamo, oppure registralo. Quindi questo vicino, diciamo, curioso inizia ad invitare i propri amici e i propri compagni del bar in casa propria per ascoltare le effusioni. Che cosa succede? Che i vicini a questo punto si rendono conto, i vicini rumorosi si rendono conto di essere nasce un'enorme lite, quindi addirittura oltre alle infusioni rumorose nasce un'enorme lite condominiale fra questi diciamo il vicino curioso con tutti gli spettatori che non sappiamo nemmeno se fossero paganti o meno e le infusioni, tanto che deve intervenire la polizia e i carabinieri e pare che ci saranno anche degli strascichi penali, ma non per le infusioni rumorose ma per il vicino curioso che ha invitato gli amici ad ascoltare. Cioè, poveraccio, questo doveva sopportare il silenzio sostanzialmente. Infatti è questo, nel senso che finché tu è interessante, nel senso che finché tu ti lamenti, probabilmente sei tu dalla parte della ragione, nel senso che dici: sentite ragazzi, va bene fare l'amore, però un certo 40 punto persone ad ascoltare, esatto, ma cosa avrebbe violato la privacy? No, perché erano tutti a casa sua. È una condotta molesta, così dicono i carabinieri, nei confronti della coppia. Chissà in quanti hanno questo problema nei loro appartamenti. Lo so, l'ho già sentito dire questa cosa. Non so se è una leggenda metropolitana o se è vero. Ma a proposito, più o meno più o meno niente. Invece, ultima notizia, che è una buona notizia: il sedere grosso è sinonimo di intelligenza. Lo rivela uno studio scientifico che, come sempre, arriva da Oxford, perché tutti gli studi scientifici i più strani possibili arrivano da Oxford. Pare che natiche prominenti significhino intelligenza fuori dalla norma. È un'equazione direttamente proporzionale, perché appunto questa ricerca dell'università di Oxford ha dimostrato che sia per i maschi sia per le femmine il fondo schiena pronunciato è sinonimo di intelligenza, in quanto le basi scientifiche sono che le natiche pronunciate richiedono un eccesso di omega 3, il quale accelera lo sviluppo della mente, quindi le donne dai fianchi pronunciati hanno un'intelligenza più spiccata. D'ora in poi, quindi, quando vedremo una donna con i fianchi abbondanti, diremo: un culo da Nobel. Non so se volevi concludere sulla Merkel. Con Nobel, no, la donna più potente del mondo. Assolutamente no, non avevo nessun intento. Definita dal nostro ex premier in un modo che faceva riferimento anche a quello. Ah, tu dici che in realtà stavi dicendo che intelligentona. Era intelligentona. Quell'intelligentona, forse sì, hai ragione. 800 24 00 24. Tra poco riprendiamo a sentire i vostri interventi. Andare, camminare, lavorare, i prepotenti tutti chiusi a chiare, i cani con i cani nei canili, le rose sui balconi, i gatti nei cortili. Andare, camminare, lavorare, andare, camminare, lavorare, dai, lavorare. E che cos'è questo fuoco? Siamo andati a ripescare una canzone straordinaria, questo qua è Piero Ciampi. Tu conosci Piero Ciampi? Benissimo, lo adoro, anche perché Paolo Rossi è un grandissimo stimatore di Piero Ciampi e fa alcuni pezzi che erano storicamente... Andare, camminare, lavorare. Non so come Andrea Piana gli è venuta in mente di andare a cercare questa canzone qua, perché la notizia è una notizia che viene dal Veneto e ha a che fare con l'andare a lavorare o meno nei giorni di festa nei centri commerciali. In particolare è stato raggiunto un accordo che sicuramente tocca un nervo scoperto, che fa sempre discutere. L'apertura dei centri commerciali nei giorni di festa, le domeniche, ormai siamo abituati, soprattutto nelle città, ad avere sempre tutto aperto, però dall'altra parte ci sono persone che lavorano, che in caso sacrificano comunque le loro domeniche. Noi lo sacrifichiamo sempre. Esatto, quello che stavo dicendo è, quando è che inizieremo la battaglia sindacale per mandare solo repliche la domenica? Ma perché noi siamo dei privilegiati che fanno un bel lavoro e quindi non abbiamo diritto di parola, ma questo problema riguarda anche i giorni delle feste, Natale, Santo Stefano, Capodanno, eccetera. Allora noi abbiamo convocato uno degli artefici di questo accordo che è stato fatto in Veneto, vogliamo capire e parlare con Maurizia Rizzo, segretario regionale Veneto della FISASCAT, spero di aver pronunciato bene. Sì. La federazione, buongiorno, italiana, buongiorno. Sindacati addetti ai servizi commerciali. Sì. Che accordo avete raggiunto sindacati e una parte dei supermercati, dei centri commerciali, che riguarda, credo, la Coop Adriatica? Sì. Ci spieghi. Allora, noi con Adriatica abbiamo fatto un accordo proprio che salva il Natale. È un accordo che in qualche modo vuole, a differenza diciamo di molti altri, andare controcorrente, perché la legge Salva Italia ha sicuramente creato un sistema selvaggio delle aperture dei centri commerciali e della grande distribuzione, soprattutto per quanto riguarda il Salva Italia, che ha portato ad aperture illimitate, non solo sotto il profilo delle aperture, ma anche sotto il profilo degli orari. Ecco, cioè... ci precisi un attimo questa cosa che è interessante. In che modo il Salva Italia, facciamo un piccolo ripasso, una delle leggi del governo Monti è intervenuta sugli orari dei negozi, liberalizzando, come diceva lei. Il Salva Italia ha purtroppo creato non pochi problemi, perché il decreto del 22 dicembre 2011, del numero 2014, ha praticamente liberalizzato gli orari e le aperture in tutti gli esercizi commerciali. Significa che un'azienda può tenere aperto 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Però quando noi sentiamo cose così, noi per esempio cittadini che abitiamo nelle grosse città e che spesso ci troviamo a fare la spesa, vorremmo magari farlo anche la notte perché magari lavoriamo anche la sera. Quando sentiamo la parola liberalizzazione abbiamo un moto istintivo, diciamo, di felicità. Sembra un sogno, onestamente. Sembra un sogno, forse perché noi lavoriamo anche noi la sera, la notte, Natale e Santo Stefano, però è ovvio che dall'altra parte ci sono persone che magari hanno condizioni di lavoro, contratti diversi, bisogna capire, e vogliamo appunto capire perché questa liberalizzazione non va bene secondo voi. Allora, sicuramente bisogna fare una premessa. Sì. La legge, il decreto sulla Salva Italia, sulla liberalizzazione degli orari, delle aperture, in un contesto di grande economia e di grande produttività di un paese potrebbe andar bene, perché vuol dire che tutti lavorano, vuol dire che tutti consumano, vuol dire che in qualche modo è un decreto che ha diciamo un aumento di un interesse forte del paese, un aumento inteso come fatturati, inteso come occupazione, inteso come valore, come servizio. E invece? Questo decreto è stato collocato, è stato decretato in un momento di grave crisi economica, dove la gente perde il lavoro piuttosto che, diciamo, averlo, dove chiaramente non solo si perdono i lavori, si aumentano le casse integrazioni, i piccoli negozi, le piccole attività, ma molti anche attività al di fuori del settore del commercio hanno chiuso negli ultimi anni. Questo ha prodotto che la mancanza di capacità economica delle famiglie e dei cittadini non fa spendere, i consumi sono chiaramente diminuiti, lo abbiamo visto anche nell'ultima settimana, siamo al 9% del calo, diciamo oramai deliberato dei consumi generalizzati. Però questo dovrebbe essere, mi scusi, un motivo per cui uno che ha il negozio decide semmai di non tenere aperto perché nessuno consuma, nel senso, certo, se uno decide, certo, di tenere aperto comunque crea dei posti di lavoro, certo. O forse sto sbagliando? No, certo, in effetti potrebbe essere così, però immaginiamo che ogni azienda, proprio per restare nel mercato, per, sì, essere competitivi, per avere di fatto una quota propria di mercato, sceglie di tenere aperto per mantenere in essere un minimo di fatturato e un minimo di occupazione, ma se la gente non spende, non compra, è chiaro ed è evidente che questo è un svantaggio piuttosto che un vantaggio. Questo poi è, come dire, deve essere poi anche il mercato, insomma i consumatori a deciderlo, in effetti non è un bel momento, però io so che c'è anche un nodo che è relativo al contratto dei lavoratori del commercio, sì, e il fatto che lavorare la domenica non sempre vuol dire poter recuperare il giorno durante la settimana in maniera appropriata, non sempre vuol dire magari avere un piccolo bonus in busta paga, che è un incentivo, e questo può costituire un problema per chi lavora. Ce lo dice però dopo il traffico, che dobbiamo fare una breve pausa, e tra l'altro vorrei anche coinvolgere gli ascoltatori all'800 24 00 24 su questo tema delle aperture nei giorni di festa dei centri commerciali, favorevoli e contrari, normalmente ci si divide, vogliamo sentire un po' che cosa ne pensate. Traffico. Si può fare cronache da un paese migliore. Andare, camminare, lavorare, i prepotenti tutti chiusi a chiare, i cani con i cani nei camini, le rose sui balconi, i gatti nei cortili. Andare, camminare, lavorare, andare, camminare, lavorare, dai! Abbiamo già qualche commento, per esempio su Twitter, Francesco Venier, che dice: sì, giusto, impediamo di lavorare ad aziende e negozi a dicembre, così i dipendenti sfruttati si riposeranno sine die. Ha capito Maurizia Rizzo? Perché quello che pensano le persone che... ma l'ironia è quella di dire se noi impediamo ai negozi di tenere aperti, in realtà poi chiuderanno perché... No, allora io credo che non dobbiamo arrivare a questi livelli qua. Io credo che noi oggi, proprio perché la crisi permane e quindi qualcosa bisogna fare, sì, non bisogna comunque continuare ad accettare che i grandi centri commerciali continuino a restare aperti oltre misura, sfruttando nelle organizzazioni del lavoro i lavoratori continuamente nei turni, senza garantire un minimo di rispetto sui carichi di lavoro, sugli orari, sulla conciliazione dei tempi di vita di lavoro. Attenzione che i lavoratori sono delle persone che hanno degli interessi personali. Quant'è lo stipendio, insomma, medio di un commesso o di un dipendente di un supermercato? Allora, in questo settore, nel settore, sì, del commercio, noi abbiamo un 75-80% di persone occupate che sono di sesso femminile. Il 60-70% degli occupati nel settore sono a part-time e non a full-time. Un full-time prende all'incirca 1.200-1.300 euro al mese. Sì. Un part-time prende dai 500-600 o 700 euro, dipende dalla quantità. Ma lavorando la domenica si guadagna qualche cosa in più, ecco, o no? Ecco, allora il contratto nazionale prevede il 30% di più. Sì. Poi vi sono i contratti aziendali che hanno riportato delle maggiorazioni superiori. Uh-huh. E il fenomeno del Salva Italia, e qua bisognerebbe ringraziare proprio Monti, è quello che ha prodotto che tutti i nostri contratti sottoscritti, sì, prima del decreto, dove avevano una percentuale, una maggiorazione e quindi una capacità di guadagnare quando si lavorava, diciamo, nelle aperture domenicali previste dalla legge precedente, sono stati tutti disdettati. Perché? Perché di fatto le aziende non hanno aumentato i fatturati, non hanno aumentato occupazione, anzi hanno aumentato i prezzi delle merci, quindi i consumatori hanno pagato di più, hanno sicuramente aumentato diciamo i carichi di lavoro, quindi le condizioni gravose delle persone, e hanno ridotto di fatto, disdettando quegli accordi diciamo vantaggiosi dal punto di vista economico, sì, hanno ridotto il guadagno. Ma mi scusi, sì, mi scusi, ma non bisognerebbe forse fare una battaglia su questo, nel senso certo, su far sì che se uno lavora di domenica guadagni di più, se uno guadagna certo, perché certo, in realtà certo, invece perché certo, quell'esempio che faceva che prima stiamo facendo, no, è proprio quello perché, che stiamo facendo, nel senso che se perdono dei soldi, non so come dire, se perdono dei soldi sono i grandi centri commerciali che perderanno dei soldi, invece i lavoratori, se sono tutelati, anche se tengono aperto 24 ore su 24 e c'è poca gente che viene a fare gli acquisti, loro comunque lavorano, anzi magari lavorano pure meno, certo, perché c'è meno gente che viene a fare gli acquisti e tutto va bene in questo senso, non sì, tanto però, di chiudere i negozi. Però ecco, bisogna sottolineare che queste, che la grande distribuzione, queste grandi aziende considerano il lavoro domenicale festivo nel, diciamo, nel decreto Salve Italia come un giorno ordinario. Ecco, ma è questa... Non più diciamo valorizzabile dal punto di vista economico, perché non lo ritengono una giornata diversa, una giornata di e questo valore. Non va bene per niente. E questo non va bene per niente. Ma è solo quello, che, non va bene. Quello che dice Carlo questa, Gabardini, io sono d'accordo, è che forse si potrebbe distinguere tra la questione delle aperture nei giorni di festa e delle domeniche e invece la contrattazione sulle condizioni di lavoro e essere pagati certo, giustamente di effetti, più, perché su effetti, questo avreste sicuramente forse anche più seguito rispetto invece alla battaglia sulle aperture o chiusure domenicale, dove probabilmente il consumatore è più dalla parte dell'apertura. Una cosa però gliela voglio chiedere in chiusura, poi ci salutiamo perché abbiamo anche gli ascoltatori. Sì. Questo accordo, quanti giorni di festa prevedete durante l'anno nei quali non allora, si lavorerà nelle Coppe Adriatiche del Veneto? Ecco, allora, abbiamo sottoscritto appunto questo sì, patto salva Natale. I giorni, realtà, volevo sapere. Sì. Il 1 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, il 1 maggio. Il 25 e il 26 dicembre e anche il 15 agosto, escluso chiaramente nei negozi dell'area lagunare e balneare. Perfetto. Grazie mille Maurizia Rizzo per essere stata grazie, con noi del sindacato Fisascat Veneto. Sentiamo al volo un ascoltatore 824-0024, Moreno da Padova, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Secondo me le attività domenicali non rappresentano una cultura, ma rappresentano la distruzione del commercio tradizionale. Pensate alle attività, le piccole attività nei paesi o nelle periferie, non riescono a condurre l'attività in maniera corretta perché subiscono la concorrenza sleale di questi grossi centri commerciali, di queste attività che dopo rappresentano ormai nel Veneto l'80% della distribuzione alimentare, costituiscono di fatto un cartello. Su questo quindi, sono d'accordo, infatti era interessante bene, chiederlo anche a Maurizio, nel senso che chi ha la propria piccola attività effettivamente ha grosse difficoltà a lavorare 24 ore su 24 perché muore a quel dobbiamo punto, fermarci, ci sono gli stranieri che lo fanno però anche questo sarebbe anche un altro capitolo. 800 24 00 24, a tra un attimo, dopo il giornale radio. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Se volete mettervi in contatto con noi, oltre che chiamare al numero verde, potete, ci trovate su Twitter, l'account del programma è chiocciola si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi e il mio chiocciola Carlo Gabardini. E a proposito di Twitter, leggo un tweet che si lega perfettamente, un tweet di Lia Celi, che salutiamo, bravissima autrice, che dice: ora che ci sono sbarcati i cinesi, la luna sarà sempre aperta a orario continuato almeno 20 ore al giorno. Perché la notizia è che i cinesi sono sbarcati sulla luna e questo si lega a quello che abbiamo detto fino ad ora, cioè degli orari dei negozi. Abbiamo sentito la notizia dal Veneto, un accordo per non tenere aperti i centri commerciali, i supermercati della Coppa Adriatica in Veneto, Natale, Santo Stefano, 25 aprile, 1 maggio, primo dell'anno e non ricordo più Pasqua. Ma Santo Pasqua, Stefano secondo me è già un giorno forse è già un giorno così. A quanto dice mia mamma, il 26 di dicembre è veramente chiuso tutto tranne l'S lunga di casa mia, l'S lunga di Papignano, che è famosa, sempre aperta. Anche il 26? Sempre aperta. Perché il 25 mattina ci sono pasticceri, ci sono diversi posti che tengono aperti proprio per Natale, però il 26 almeno a casa mia si è sempre detto bisogna fare le scorte, che il 26 infatti è il famoso giorno che si fa la cena degli avanzi, di tutti gli avanzi. Sentiamo un po' qualche ascoltatore. Paolo che ci chiama da Treviso, buongiorno. buongiorno, salve, buongiorno a tutti quanti. Eccoci qua, buongiorno. Allora, io semplicemente volevo, visto che mi trovo nel mondo del commercio da tanti anni, mi trovo sui due fronti, sia a svolgere il lavoro di commesso così e alla gestione di sette punti vendita. Volevo portare, senza entrare negli equilibri che vengono spostati dalla grande dalla piccola distribuzione verso la grande distribuzione, volevo semplicemente dire questo: questa liberalizzazione è stata fatta anche puntando sulla leva morale delle persone, dicendo che il commercio avrebbe fatto più 1% del PIL nazionale. La realtà dei fatti è che ha fatto meno 3% sul totale dell'anno prima, e che questo prezzo lo stanno pagando semplicemente i lavoratori, perché se voi entrate nelle cose in maniera più precisa, più approfondita, vi accorgerete che i lavoratori del commercio che lavorano nelle realtà che voi frequentate e che vedete come qualcosa di luminoso, in realtà pagano il prezzo della vostra libertà. Come? Non essendo retribuiti, recuperando... Come non essendo retribuiti, Paolo? Non vengono pagati? Vengono pagati in maniera irrisoria, perché il 30% di una giornata normale equivale a 8-12 euro. Sì. E questo non... Ma è questo il punto, Paolo, è questo, l'abbiamo già detto anche con la sindacalista della Fisasca, almeno è il nostro punto di vista. Sì, mi faccia dire una cosa, perché l'ho fatta parlare. Il punto di vista mio personale è questo: facciamo in modo che questo stipendio salga, che questo 30% salga. Ma non si capisce perché fare una battaglia solo sulla domenica. Le spiego subito perché. Perché ci sono, nell'80% dei casi, persone che lavorano 52 domeniche l'anno, e non credo che sia giusto che una categoria di lavoratori debba rinunciare alla propria socialità, alla propria famiglia. Guardi, io non so più quante domeniche ho lavorato, però ripeto, il nostro siamo dei privilegiati agli occhi di tutti, e in parte lo siamo anche, anzi sicuramente lo siamo, quindi non voglio mettermi in mezzo. Però poi scusa, il problema non è lavorare la domenica, mi sembra di intuire, non è lavorare la domenica, ma è semmai lavorare 7 giorni su 7, perché uno può anche avere giorno, cioè io ho sempre amato avere un altro giorno libero, che ne so, il martedì libero quando non c'è in giro nessuno, e quindi posso andare a fare le cose che devo fare incontrando meno gente, quindi volendo nel senso, stiamo parlando di questo, oppure lei sta parlando di chi lavora 7 giorni su 7? Perché quello certo che è un problema, ma non è un problema di socialità, lì è un problema di sopravvivenza. Sì. Le do anche questa informazione qua, se voi volete. Certo. Le persone che lavorano nel commercio, se lavorano 8 ore di domenica, le fanno recuperare a quarti d'ora, a mezz'ora durante la settimana. E credo che questo non sia un comportamento... Questo fa schifo, ha ragione. Ma questo è consentito dal contratto nazionale del commercio. Ma è su questo che bisogna fare una battaglia, non sul fatto che bisogna tenere chiuso la domenica. Anche perché se uno non è cattolico, magari della domenica non gliene frega niente. Grazie intanto a Paolo. Grazie Paolo. Va bene Paolo, abbiamo capito il senso del suo intervento, non ci fossilizziamo solo su di lei. Andiamo ad Alberto, che ci chiama da Pordenone. Sì, buongiorno, sono in linea. Sì, buongiorno, io volevo dire che anch'io sono un lavoratore che lavora tutte le domeniche, il problema sta proprio in questo tutte le domeniche, che non ce n'è una ogni tanto in cui si può stare a casa con la famiglia. Le uniche domeniche che si può stare a casa sono quelle in cui si è in ferie, quindi si riducono a 4-5 all'anno, e si riduce il tutto a stare con la famiglia un'ora, due ore la sera quando si torna a casa, anche perché gli orari di lavoro sono spesso intervallati da pause di tre ore e mezza che portano via comunque tutta la giornata. E quindi questo il problema sta... È molto giusto questo che sta dicendo. No, mi scusi, perché mi correggo forse per una cosa che ho detto prima, perché essendo io single e non avendo figli, è ovvio che per me è uguale avere un altro giorno libero. Se uno ha una famiglia, effettivamente la domenica, quando i figli non vanno a scuola e forse anche la moglie a casa, è bello stare a casa. Quindi correggo forse una cosa che ho detto prima che non era corretta. Va bene, adesso 800 24 00 24. Ma lei, Alberto, è ancora in linea? Sì. Vuole rispondere al contest la coppia di personaggi della settimana, che noi abbiamo detto uno ci ha fatto sorridere, l'altro invece ci ha fatto piangere, si vince una smart box per due persone? Ci ha pensato? No, onestamente no, non l'ho seguito. Va bene, allora rilanciamo una coppia di personaggi questa settimana, si vince la smart box Addio Stress per due persone, ma anche i biglietti per una mostra del FAI a Villa Panza in provincia di Varese. Vediamo se Rita da Roma vuole rispondere, adesso poi diamo anche un altro indizio. Rita, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io penso sia Michelle Obama, perché ci ha fatto ridere per la, diciamo, lo sguardo geloso, e ovviamente i funerali ci ha fatto piangere Mandela. Mandela, sì. Anche questa è una bella risposta, Rita. Beh, però è una coppia anche strana, nel senso che... Sì. Però unite dal funerale di Mandela, dalle celebrazioni, al fatto che erano tutti lì. Erano tutti però lì, devo più dire. Cioè, tutto il mondo era lì. Rita, però non è questa la risposta. Grazie, bella risposta. Questa, sì. Questo particolare, sì, di Michelle, in effetti era, valeva la pena, bella, di ricordarlo è vero. A questo punto della settimana, cioè di domenica. Aggiungiamo un altro indizio. I due personaggi sono entrambi campani, quindi non sono stranieri, sono italiani e sono campani. Una coppia campana. Uno ci ha fatto sorridere, ripetiamo. E l'altro ci ha fatto piangere. Va bene, a tra poco con gli ascoltatori. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono. Forse è il caso di dire qualcosa? Direi di sì. Una nel blu dipinto di blu, cantata da cinesi in italiano, ma anche da cinesi in cinese. Era cinese quello lì. Era troppo cinese, perché lo riconosco, esatto, il problema è questo, che noi non siamo in grado di certificarlo. Un dialetto mi sembrava cantonese. Un dialetto, sì. Non siamo in grado di certificarlo al 100%, anzi, se c'è qualche cinese all'ascolto, parlante italiano, che vuole confermare, ci chiami assolutamente. Magari anche il dialetto in cui è stata interpretata questa canzone di Modugno. Però è bellissima. Però è bellissima. Anche se in questa versione con la pianola tipo Bontempi. Sì, poi anche la canzone, che c'è la sensazione che è veramente cantata in qualunque modo, anche va sempre bene, gorgheggiata o fatta brr brr brr, perché la notizia della settimana per quanto riguarda la comunità cinese in Italia è questa: a Prato doveva aprire, non so poi se è aperto, ma io credo di sì, anche se ha sollevato delle perplessità, ed è questo di cui parliamo, l'ufficio postale rivolto alla comunità cinese, parlante cinese, con cartelli in cinese, operatori che parlano cinese, assunti proprio per questo, per venire incontro alla comunità, per evitare questo rinchiudersi, e insomma sempre avendo alle spalle quello che è successo ormai 3 settimane fa, direi, sì, la tragedia nel capannone a Prato, quando sono morti 7 persone. Apriti cielo, perché questa notizia non è piaciuta proprio a tutti. Per esempio al senatore di Forza Italia Riccardo Mazzoni, coordinatore a Prato di Forza Italia, che ha fatto un'interrogazione parlamentare. Noi lo abbiamo convocato di domenica mattina. Buongiorno Mazzoni. Buongiorno. Buongiorno. Senti, parlante toscano, si sentiva già dal buongiorno, Mazzoni. L'accento si tradisce subito. Perché non lei ha fatto questa interrogazione? Intanto l'ufficio ha aperto regolarmente nonostante la sua interrogazione, sì. Sì, l'ufficio ha aperto martedì, però contiene un corner italiano, diciamo che sì. La filiale doveva essere monoetnica, cioè tutta con cartelli e servizi solo per i cittadini cinesi, e poi all'ultimo momento è stata in parte modificata l'impostazione, diciamo. Per effetto, lei dice anche di quello che ha, delle perplessità che ha sollevato lei con la sua, col suo intervento? La perplessità è che una filiale che comunque rende un servizio pubblico alla comunità non può escludere gli italiani, i pratesi da questo servizio, perché mi sembrava un modo non per integrare la comunità cinese ma per contribuire a ghettizzarla ulteriormente, perché sono pienamente d'accordo, ma perché l'idea era di farlo solo cinese all'inizio, cioè che gli italiani non potessero andare. Io credo che i cartelli però erano bilingue, io ho visto le foto, i cartelli erano bilingue, ho visto anche delle interviste, gli operatori sono bilingue, quasi però, tutti. Nell'invito che Poste Italiane SPA aveva mandato a tutti, c'era scritto che si trattava di uno sportello monoetnico. No, ma questo, allora, secondo me lei c'ha assolutamente ragione, non avevo capito che fosse così. Sì, effettivamente sì, monoetnico non ha molto senso, perché mai adesso va bene tutto, ma non è che se un italiano non può andare in un ufficio postale delle Poste Italiane, mi sembra un po' assurdo. Però quindi, il problema nasceva dal fatto che il precedente ufficio che c'era, che era un ufficio normale, Poste Italiane doveva spendere un sacco di soldi perché avevano almeno 6 interpreti, sì. E allora avevano pensato di ovviare a questo problema assumendo direttamente delle persone che erano in grado di... Però, insomma, perché... sì, prego. Si creano delle disparità assolutamente insomma, ingiustificate, ecco. Però voglio dire, è chiaro la sua perplessità rispetto a questa iniziativa, poi lei dice c'è stata questa correzione con un angolo dell'ufficio fatto per italiani, parlanti italiani che non hanno nulla a che fare con il cinese e con la Cina, però lei condivide diciamo, la cosa che ha mosso, la spinta che ha mosso le Poste a fare questa operazione diciamo, per venire incontro, certamente in una maniera non universalistica, perché siamo in Italia, si dovrebbe parlare italiano, tutto dovrebbe essere in italiano. Però, data la grande forza della comunità cinese lì, dato la tendenza, diciamo, a chiudersi a riccio, se vogliamo usare anche un eufemismo, della comunità cinese, questa spinta a fare un ufficio rivolto ai cinesi, lei la condivideva o no? Ma guardi, io ritengo che quando ci sono fenomeni immigratori così forti come quello che ha coinvolto Prato, ci sono due modi: o si integra la comunità che arriva, oppure questa comunità si sovrappone a quella che è preesistente. Cioè, il modo per integrarsi è, come dire, pretendere che si imparino la lingua, che si rispettino le leggi, gli usi, le tradizioni, eccetera, e in questo modo poi ci si viene incontro e ci si integra. La comunità cinese ha costituito un'enclave completamente staccata dal resto della città, che non rispetta le leggi, che continua a non parlare la lingua, e sono passati ormai più di 20 anni da quando sono arrivati i primi cinesi. E che cosa c'è che non va allora? Perché non funziona questa integrazione? Chiaramente immagino la sua risposta in parte sarà da attribuire la responsabilità all'atteggiamento della comunità cinese, ma visto che la relazione è bilaterale, ci sono loro e ci siamo noi, dal nostro punto di vista credo che per le Poste questo equivalga a fare una sorta di autocritica o quantomeno dire facciamo quello che possiamo fare noi, cioè per esempio cominciamo a fare cartelli bilingue, se loro non leggono l'italiano leggeranno almeno il cinese. Sono 20 anni che a Prato, per esempio, al reparto di maternità dell'ospedale ci sono cartelli bilingue, perché nascono più bambini cinesi che italiani, diciamo. Il problema, lei mi chiede perché, le faccio un esempio, dei 1000 bambini cinesi che nascono a Prato e quindi nascono, come dire, tra virgolette italiani, molti di loro, una volta svezzati, siccome i genitori devono lavorare e non li possono accudire, vengono rispediti in Cina o da parenti o nei collegi e tornano a Prato in età scolare. Sono nati a Prato e quindi sono considerati italiani, parlanti la lingua italiana, e non sanno una parola di italiano. Quindi vanno a scuola e sono, come dire, dei corpi estranei rispetto, anzi... Beh, ma però questo ha 5 anni e poi iniziano a imparare l'italiano e ci mettono 6 mesi a imparare l'italiano. Lei capisce qual è il problema? Che se un bambino arriva in fine elementare e non conosce una parola italiano, è un problema per sé e per gli altri bambini che devono andare avanti con il programma didattico. Non è un problema di poco conto, però era per fare un esempio, certo, cioè, che non c'è la volontà di integrarsi, perché sarebbe bellissimo che ci fossero tanti bambini con gli occhi a mandorla che parlano come me il pratese, sarebbe la cosa più bella del mondo. Beh, qualcuno c'è. Sì, devono, però anche sapere il cinese, quindi il fatto che decidono di andare i primi 4 anni in Cina per imparare anche il cinese non mi sembra anche sbagliato. Io però non quello, che non ho capito, non quello che non ho capito, Mazzoni, nella sua posizione è questo: come si fa ad ottenere un risultato diverso rispetto a quello che abbiamo sempre ottenuto fino ad ora, cioè aspettando che siano loro ad integrarsi a noi? Se non si integrano, cosa dobbiamo cambiare nel nostro modo di rapportarci, perché se non cambiamo nulla noi, non cambiano nulla loro, il rischio che si ripetano cose come quelle di Prato di qualche settimana fa esiste. Noi dobbiamo far rispettare le leggi, soprattutto pretendere che la comunità cinese rispetti le leggi esattamente come quasi tutti noi facciamo, nel senso pagare i contributi, pagare le ferie, pagare le tasse, pagare la tassa sui rifiuti. Io ho posto più volte il problema anche con interrogazioni parlamentari dicendo che a Prato ci vuole uno sforzo straordinario dello Stato. Ora c'è stata una giovedì una riunione al Viminale e mi sembra che il segnale sia stato recepito, perché qui si parla di 50.000 persone, metà delle quali clandestine, che sfuggono a ogni controllo. Lei pensi che da Prato ogni anno attraverso il money transfer fanno via illecitamente 500 milioni di euro, che sono una cifra enorme, perché sono 1.000 miliardi delle vecchie lire, che farebbero da soli il prodotto interno lordo di Prato, che un tempo era il primo distretto tessile italiano e ora anche attraverso la concorrenza sleale cinese è entrato in una crisi profondissima. Che loro debbano rispettare le leggi comunque non ci sono dubbi, nel senso che non è che hanno un'esenzione dalle leggi, poi forse non vengono applicate lì, però quello leggi che dice sono. Il senatore Mazzoni è proprio questo, che bisogna l'unica cosa che dovrebbe fare di più l'Italia è questo, cioè applicare le leggi anche fare con gli italiani, perché in più di contro... sì, esatto, tra l'altro è vero, questo è vero, onestamente va detto che non sono solo cinesi a non rispettare le leggi, il nostro è un di po' un paese, chi non fa lo scontrino poi è italiano anche, non è che... Ha capito, Mazzoni, qual è la critica? Sì, ma certo, questo, sì. Però le ripeto, sì? Pensi che il fenomeno è talmente grande che c'è, perché 55.000 persone sono una città, e la città di Siena trasposta a Prato, cioè non si tratta di un... E quindi è un problema che le autorità locali da sole, anche se ce l'hanno messa tutta, perché io quando ho letto dopo la tragedia nel Capannone, che ha veramente sconvolto tutti... E di Prato è venuta fuori un'immagine di una città indifferente che vede, che guarda questi fenomeni, come dire, con disinteresse, eccetera. L'amministrazione comunale in 4 anni ha fatto 1.400 ispezioni nei capannoni cinesi. Il problema è che c'è, io quella che chiamo una criminalità organizzata, perché che organizza da prima la tratta dei clandestini e poi li trasforma in schiavi, e chi viene qua sa perfettamente quello che lo aspetta, di dover partire dal livello di schiavo per poi salire nella scala sociale. Speriamo che questo invece accada sempre di meno, e che sia i controlli sempre più stretti, sia anche la nostra capacità di venire incontro, per esempio anche con iniziative come quella dell'ufficio postale bilingue e con operatori parlanti cinesi, che credo di aver capito adesso con questo compromesso soddisfa anche chi come lei o il senatore Mazzoni, sì, ha fatto qualche perplessità all'inizio. Risolto, ma... Grazie per essere stato con noi. Grazie, buona domenica. Mille, buona domenica. Grazie, a voi. Grazie. Allora sentiamo anche gli ascoltatori, va, se c'è già qualcuno forse che chiama tra l'altro da Prato e sicuramente avranno qualcosa da dire su questo. Mirko, buongiorno. Mirko da Prato. Buongiorno. Grazie, sì. Grazie per avermi richiamato. Io vorrei suonare una piccola campanella un po' contraria. nel senso che d'accordo tutto quello che è stato detto riguardo alla reticenza sul rispetto delle leggi eccetera, io conosco molti cinesi, ho una figlia che ha molti compagni di scuola cinesi eccetera, però è anche vero, e questa è una cosa che mi dispiace dirla, io vivo a Prato da 30 anni e questa è una città che ha grossi problemi ad accogliere. Qui addirittura i pratesi stessi fanno fatica a salutarsi tra di loro, anche tra persone che si conoscono da anni. Questo anche a Milano, sa, anzi noi qua a Milano siamo la patria di quelli che non si salutano, cioè che non si salutano fra di loro. Però questo è un problema di educazione, forse conosci della gente veramente stronza, perdonami. No, no, ma qui a Prato fatto salvo un bel numero di associazioni che si occupano di accoglienza, di integrazione. Fra pratesi. La gente qualsiasi, diciamo la gente comune, ha una grossa difficoltà a socializzare e quindi accogliere qualcuno che è anche addirittura diverso da un punto di vista. E questo secondo lei, Mirko, ha a che fare anche con fatti gravi come quello del Capannone dove sono morte 7 persone, cioè l'indifferenza umana. Sì, ma non vorrei arrivare a mettere in relazione queste due cose. Lei parlava però, più di una capacità o meno di accogliere. Va bene, Mirko, sì, questo... Io vorrei invitare i pratesi a riflettere su questo, la capacità di accogliere le persone, di socializzare, che è una cosa. Va bene, questo però io credo fatica. Che riguardi... Cioè, magari il caso di Prato mette alla prova le persone sulla questione dei cinesi, però questa è una cosa che riguarda tutti noi, forse ai tempi di oggi, nelle nostre città, dove si viaggia veramente... veloci, con i nostri ritmi, con magari col smartphone connessi con qualcuno che sta dall'altra parte del mondo in un'altra città, e ci sono molti sguardi di indifferenza, questo è vero. Poi se questo ha a che fare anche con i pratesi, o con cose come cioè, è interessante questa cosa che in realtà i corsi di socializzazione vanno fatti sia per i cinesi sia per i pratesi, cioè mi sembra interessante l'intervento dell'ascoltatore. L'ascoltatore poi non arrivava a collegare questo col fatto di cronaca i 7 morti, però ma sul fatto dell'accoglienza, come un contesto nel quale le cose avvengono, l'integrazione mal avvenuta, sì. Allora, posso dire un'altra cosa che mi ha fatto veramente strano? Sì, che nel comunicato delle Poste Italiane, da cui poi questa notizia di cui abbiamo appena parlato, nell'ultima riga dice: ad oggi sono oltre 200 gli operatori di sportello inseriti nei diversi uffici postali di tutta Italia in grado di parlare una o più lingue straniere. Posso dire che è veramente niente? È poco. Cioè, in tutte le Poste Italiane noi ci vantiamo di avere 200 operatori che sanno tipo l'inglese? È un problema. Poco. E forse era quel comunicato serviva per per mettersi le spalle coperte sul fatto che non è solo l'ufficio postale di Prato per i cinesi, ma abbiamo anche altri casi in Italia, quindi non era una discriminazione, al contrario, ma una forma di apertura. Però 200 in tutta Italia vuol dire che ci sono migliaia di uffici postali dove dentro non c'è manco una persona che sa dire yes. È un problema, anche perché siamo dell'Europa unita. Vogliamo dire anche parlare correttamente italiano. Questo l'hai detto tu. A volte capita. Vogliamo fare un altro ascoltatore al volo sulla coppia di personaggi della settimana. Maria Vittoria dalla provincia di Lodi, lei chi sì, per chi pronto? Vota? Sì. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ci siamo già detti 4 volte, Maria. Pronto? Sì, la sento, ma aspetti, mi ripete la domanda, mi sa. Stiamo cercando la coppia della settimana. Noi pensavamo Totò e Troisi. Perché? Perché sono campani, perché uno ci ha fatto ridere e l'altro ci ha fatto piangere, per non ci resta che piangere perché non c'è più. Maria Vittoria, molto bello, anche se molto non è bella. Questa, perché non è una cosa tra l'altro di attualità di questa settimana. Sì, comunque... è vero. No, però insomma poteva essere, ma non è così. Grazie mille. Grazie, tra poco, dopo la pubblicità, diamo un altro indizio, va bene? Sì, sì. 800 24 00 24, tra un attimo. Sentirsi con papà senza santi da pregare. Si può fare ed avere tanti soldi da poterseli rubare. Si può fare. Ben ritrovati da Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Eccoci qua, allora, con un paio di interventi ancora al numero verde. Sia di risposte al contest, vi chiediamo una coppia di personaggi di questa settimana legati tra loro in qualche modo. Uno ci ha fatto sorridere, uno ci ha fatto piangere. Graziella da Saronno, buongiorno. Buongiorno. E sono tutte e due campani, abbiamo pure detto. Graziella? Allora, per me uno è l'interprete ai funerali di Bindini, Mandela l'interprete per la lingua dei sordi. E che è un noto campano, giusto? Cioè, è proprio nato, credo, a Salerno. No, avevamo detto, Garzia, allora avevamo, non ho sentito avevamo dato l'altro indizio che sono tutti e due italiani e campani. Comunque, ma ci dica la coppia, però l'interprete ha colpito l'immaginario di molti ascoltatori. L'altro chi era, secondo lei? Vabbè, non ho sentito la trasmissione, sì. Quindi niente. Vabbè, non importa. L'altro chi era, giusto per fare l'altro, la coppia? Angelo Rizzoli, una vergogna per il paese. Che è morto. Ma sono coppia in quanto, nel senso che un minimo devono avere anche qualche cosa a che fare. Coppia non è che sono due persone... che non si sono mai incontrati. No, lei ha messo insieme due vicende di questa settimana. Io ho messo insieme due personaggi, non vi ho sentito così. Va bene, grazie. No, grazie comunque per averci chiamato. Non ha indovinato, non ha la risposta corretta. Bisogna ascoltare di più la trasmissione. Aggiungiamo un indizio tra un attimo. Giovanni da Trento, lei però è in linea da un po', su cosa voleva intervenire, Giovanni? Abbassi la radio intanto, se no sentiamo il ritorno. Abbassi la radio, ci senta al telefono. Grazie. Ok, eccolo. Buongiorno. Volevo dire che io sono un commerciante. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Voleva dire solo questo? No, io sono un commerciante e non è che tutti i commercianti vogliono aprire la domenica, è perché sono costretti ad aprire la domenica. No, ma lo sappiamo ma lo sappiamo bene, nel senso che tengono aperti tutti gli altri, sennò uno perde mercato, giusto? No, ma proprio se io voglio tenere chiuso, io perdo quelle 700-800 euro al mese che dopo mi vado a pagare le tasse. Certo, ma è un commerciante di che tipo di esercizio? Abbigliamento. Io fino a 2 anni fa avevo 6 dipendenti in 2 negozi, adesso siamo 2 dipendenti, mia moglie e mia figlia, perché gli altri sono andati via. Sempre in 2 negozi o un negozio solo? Sì. No, in 2 negozi, sempre in 2 negozi. Quindi faceva lavorare la domenica ai suoi dipendenti? Io lavoro 24 ore su 24. Letta non lo sa che io lavoro 24 ore su 24. Letta vuole solo i soldi, chiede soldi. Va bene, ma Giovanni, tiene aperto anche perché sotto Natale uno tiene aperto perché magari quest'anno regala uno sciarpino. È una situazione particolare. Un altro discorso. Abbiamo trovato un ascoltatore che ha trovato il modo di parlare di Letta e del governo anche se stavamo parlando dell'apertura dei negozi. No, certo che... Le tasse le chiede lui, non è che le chiedo io. È il governo, diciamo, è il paese, non è che le chiede Letta personalmente. Le tasse ci sarebbero comunque da pagare, cioè sul fatto di aprire o meno la domenica è un'altra questione che si aggiunge alle questioni che già ci sono. Sicuramente in Italia c'è un livello di pressione fiscale elevatissimo. Lei ha ragione. Posso dire un'ultima cosa? Io sono un piccolo imprenditore, sì, che purtroppo sono riuscito a comprarmi una casa, purtroppo dico, perché oggi come oggi chi è che ha una proprietà, chi è che ha qualcosa, chi ha creato qualcosa, deve stare attento, perché lo Stato te lo può fregare. Chi è che non ha niente? Io dico a tutti questi che non hanno niente, che non, anche se non pagano niente. No, questo non lo accetto. Ascolti, le do il mio indirizzo, se mi dà la sua casa. Io non ce l'ho una casa, se vuole prendo io la casa. Questo non lo accetto, il fatto che lei dice che invidia chi non ha niente, queste sono solo balle. 800 24 00 24. Aggiungiamo invece l'indizio per vincere la coppia dei personaggi di questa settimana, che sono uno che ci ha fatto sorridere, uno che ci ha fatto piangere. Sono entrambi campani e... A entrambi nelle cose piace andare a fondo. Segnatevi questo indizio e tra poco vincerete sicuramente la Smartbox e i biglietti per la mostra del FAI a Varese. Tra un attimo. We don't need no education. We don't need no thought control. Dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. oggi siamo andati a pescare nei Pink grandi classici Floyd. Prima Piero Ciampi, adesso i Pink Floyd, quando si parla di scuola in questo caso, perché vogliamo raccontarvi di una scuola dove si ovvia in qualche modo al problema della formazione per il lavoro con tanto entusiasmo, tante idee che hanno anche ottenuto dei riconoscimenti. Abbiamo convocato Daniele Manni, docente dell'Istituto Galilei Costa di Lecce. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sento già la ola di quelli intorno a lei, perché insomma, da come venite raccontati, insomma, dai giornali, dalla stampa locale, ma non solo, siete una scuola davvero particolare, dove questo problema di cosa fanno i ragazzi usciti da scuola, voi lo affrontate prima e avete mille idee, fate delle fiere, fate dei concorsi, insegnate l'imprenditorialità, le cose, per esempio adesso ci dica l'ultima iniziativa. Guardi, allora intanto faccio una piccola premessa, sì. Visto che siamo stati accolti dai Pink Floyd con Teacher Leave the Kids Alone, ecco. Noi facciamo praticamente il contrario, anziché lasciare lasciarli giusto, stare, li stretti attorno a voi. Sì. È un ottimo commento, è bello. Un ottimo ecco, commento. Allora, anche perché sono brani della mia generazione, quindi certo. Li conosciamo. Invece molto voi bene. Li accompagnate molto i vostri ragazzi. Sì, noi li accompagniamo molto, diciamo che forse la cosa più semplice dal discorso è questo, che noi già da una decina d'anni cerchiamo di essere una scuola che guarda molto cosa succede fuori dalla scuola, sì. Cercando di anticipare i tempi. Io ho la fortuna di insegnare informatica e parto dal presupposto che non posso insegnare l'informatica che c'è oggi fuori, perché se insegno quella che c'è oggi, quando si diplomano fra 3-4 anni è già vecchia, allora devo cercare di guardare avanti. Detto questo, 2-3 anni fa vennero dei ragazzi diplomati, si erano diplomati a luglio, eravamo a febbraio, e dissero: professore, ce ne stiamo andando perché qui lavoro niente, abbiamo cercato in tutti i modi, abbiamo bussato a mille porte, non c'è nulla, ce ne stiamo andando. E lì è scattata un po' una molla, come dire che forse come scuola avevamo una responsabilità maggiore. Ma erano ragazzi diplomati in cosa, mi scusi? Diplomati al tecnico economico indirizzo programmatore. Perfetto. I vecchi ragionieri di una volta con la specializzazione in informatica. Certo, certo. Allora un po' il senso di responsabilità lì, ma forse la scuola deve fare di più e non soltanto formare e preparare in pratica per il futuro, ma se fossimo un po' più bravi a creare il lavoro durante il corso degli studi, forse per 3, 4, 5 nostri diplomati all'anno il lavoro riusciamo a darglielo e non devono bussare alle porte. E quindi si è creata una sorta di sfida, e la sfida è aperta molto perché a luglio si diplomano questi ragazzi con cui abbiamo iniziato questo progetto, e ad agosto sapremo se siamo stati talmente bravi da veramente dare un posto di lavoro a 4, 5, 6, 7 sì. dei nostri ragazzi. Perché questi ragazzi hanno già iniziato a lavorare, ecco, durante il percorso di studio. Questa è la premessa giusta, però ci racconti anche i casi concreti, perché ci sono delle storie bellissime. No. C'è allora, un ragazzo, faccio io qualche esempio, così poi le sceglie. In particolare questa classe ha iniziato in terzo, quindi 2 anni fa, occuparsi di dieta mediterranea, un nostro logo che serve per incentivare e promuovere i nostri prodotti locali del Salento. Allora, andiamo sulla concretezza. Bravo. Hanno organizzato per 2 anni di seguito, e stiamo organizzando il terzo, nel ponte del 25 aprile, un festival della dieta mediterranea nella piazza centrale di Lecce, piazza Sant'Oronzo, con circa 60 espositori. La fiera festival è andata benissimo, i ragazzi hanno guadagnato, perché ovviamente da un lato c'era da spendere per le strutture, per la pubblicità, dall'altro c'era in pratica la quota partecipativa degli espositori. Dovevamo fare di tutto per renderlo un fatto economico, cioè che le entrate fossero superiori ovviamente all'uscita. E ci siete riusciti? E ce l'hanno fatta, hanno guadagnato in pratica un assegno di 1200 euro per un lavoro svolto appunto da aprile scorso. Stiamo organizzando la prossima edizione. Senta, ma come 1200 euro al mese. Ma come fate a superare, no, in quell'occasione lì, come, era un una tantum, come fate a superare tutte le cose burocratiche che in una scuola ci sono, il fatto di investire soldi diciamo privati, fondi? Vorrei passare un pochettino questo luogo comune, sì? Nel senso che di cose burocratiche ce ne sono poche, nel senso che noi presentiamo ovviamente il nostro progetto alla presidenza, alla preside. La preside che dimostra una particolare sensibilità in questo ambito, è sufficiente che non ostacoli, e la nostra, grazie a Dio, è molto avanti. Quindi lei, insomma, ci sta dicendo che non ci sono troppe regole, troppa burocrazia, le cose volendo si possono fare. Ci racconti un'altra esperienza, perché so che ne avete tanto. No, ci racconti, adesso le faccio la domanda perché abbiamo pochi minuti, ci deve raccontare le cose concrete che sono quelle più belle. Un altro caso, per esempio, un ragazzo non vedente che ha fatto inventato un modo per vedere i video su YouTube. Esatto, nel senso che questo è da un lato una banalità gigantesca, ma molto spesso le invenzioni più belle sono proprio delle banalità. Lui era molto arrabbiato, Vincenzo Rubano, il nostro studente era molto arrabbiato in pratica per l'inaccessibilità del web, ha già portato avanti una lotta creando un suo sito, si chiama titengodocchio.it, molto ironico ovviamente, dove denuncia le inaccessibilità del web, e poi ha creato questo sistema molto semplice per far vedere, virgolettato, video ai non vedenti, facendo cosa? Aggiungendo nella descrizione del video esattamente cosa accade, e quindi un non vedente, certo, cioè una sorta di sottotitoli, diciamo quelli di pagina 777 per non è la descrizione di tutto quello che avviene in audio, è la descrizione verbale in audio, non i sottotitoli durante il video. Ho sbagliato, ora entra una persona nella casa e dice quello che dice. E così via. Beh, è bellissimo. Un altro esempio concreto, un altro gruppo di ragazzi hanno inventato un nuovo modo di commercializzare olio extravergine d'oliva. Cosa hanno fatto? Hanno trovato una bellissima confezione, hanno trovato dell'ottimo olio, hanno scelto dell'ottimo olio qui del territorio, hanno imbottigliato, hanno creato un nuovo marchio, hanno reso il prodotto preziosissimo e lo propongono via web, hanno creato un sito bellissimo, l'olio si chiama Nectaria e lo vendono sul web. Lo vendono bello anche il nome. Senta Manni, Daniele Manni dell'Istituto Costa Galilei Costa di Lecce, lei ha detto insomma che non è difficile fare queste cose, basta impegnarci, però mi sembra che avete aperto una strada, una pista, avete avuto anche dei riconoscimenti, siete bravi da quelle parti a inventarvi delle cose per il futuro professionale dei vostri ragazzi. Insomma, noi vi mandiamo magari qualcuno che vuole imparare da come fate voi. Siete pronti, siamo aperti. Fate qualche consulenza, che ne so. Io ci vengo subito. Siamo assolutamente aperti. Perché ogni volta che realizziamo un progetto, concludiamo il nostro comunicato dicendo... Sì. Ovviamente siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione. Se altre scuole, altri docenti volessero chiederci come si fa, come avete fatto, chi avete contattato, con chi siete entrati in contatto, che cosa avete scritto, siamo assolutamente aperti, perché ci piace immaginare una scuola italiana fatta in questo modo. Non sarebbe neanche difficile. Cari amici all'ascolto, genitori di ragazzi che vanno a scuola, insegnanti, docenti, presidi, qualunque cosa, sicuramente come sempre accade ci saranno altri casi belli altrettanto da raccontare, questo però era uno forse molto particolarmente bello. Prendete qualche appunto e copiate, perché insomma si può fare. È assoluta, anche questo. Perché per esempio io che ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica da Paolo Grassi, per esempio durante i 4 anni di Paolo Grassi è vietato lavorare, cioè se ti beccano che tu fai l'attore fuori dalla scuola vieni mandato a casa. Questo ai miei tempi. Adesso, perché questo è l'esatto contrario, no? Questo è un istituto tecnico dove durante il percorso di studi, come solitamente non si lavora, invece gli danno il permesso di poter lavorare e anche guadagnare dei soldi, invece nelle strutture solitamente questa cosa qua non è permessa. Traffico. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Arturo da Guidonia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, lei voleva intervenire, rispondere al contest, cosa voleva fare? Volevo dare la risposta e poi un suggerimento. Do prima la risposta? Sì, la sentiamo un po' così, prego Arturo, sì. Dunque, la risposta è i due domandanti, Schettino e De Falco. Un applauso, eccolo. Aspetta l'applauso. Bravo Arturo. Ha indovinato. Cos'è che l'ha fatta indovinare? Il fatto che volevano andare a fondo Campani, tutti e due nelle carte. Quando ha detto Campani, che vi ho capito. Ho visto fino a stanotte su Sky il processo. Insomma, tutto il processo. Perché lei dov'è? Ai confini tra il Lazio e la Campania? Guidonia. No, io sto a Guidonia, 30 km da Roma. Ah sì, vabbè, non proprio ai confini, ho sbagliato, sì. Va bene, complimenti Arturo. Lei ha indovinato, Schettino e De Falco ci sono trovati uno di fronte all'altro nel processo per la tragedia della Concordia, insomma. non è che ci sia molto da aggiungere. No, direi di no. Direi che abbiamo così ricordato la notizia, che comunque era una delle notizie della settimana. Ecco, complimenti, sì. Voleva aggiungere anche qualcosa? Arturo, no, Arturo ha vinto. Perfetto. Perfetto. Sì. E chi è disoccupato non ha finito le scuole? Io al momento mi trovo in campagna e sto a mettere la rete ai piselli, impalare i piselli, cioè ci arrangiamo così. Vabbè, ciliegie. Non si sente bene, Arturo, non si sente bene. Vince, lo ricordiamo, una Smartbox per due persone a Dio Stress, ma anche i biglietti per la mostra del FAI in provincia di Varese, a Villa Panza. Ricordiamo anche il titolo di questa bella mostra, che è All'origine delle sensazioni. Adesso chiudiamo il nostro viaggio nelle capitali, nelle città italiane candidate capitali europee della cultura 2019. Siamo a Cagliari, che è una delle città che sono entrate nella shortlist. Sì, sì, abbiamo seguito tutto il percorso per essere, insomma, tra quelle città tra cui verrà scelta la capitale europea della cultura 2019, che sicuramente sarà una città italiana. E ci sono altre città. Noi intanto salutiamo l'assessore alla cultura del Comune di Cagliari, Enrica Puggioni. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Intanto complimenti per il vostro, per questo traguardo. Ci ricorda anche quali sono le altre città velocemente? Siena, Ravenna, Perugia, Assisi, che sono insieme, Lecce e Matera. Un bello sconto, tutte città medio-piccole. È tutte forse Cagliari è la più grande, no, Lecce forse è più grande. Cagliari è più grande anche perché raccoglie tutta l'area metropolitana e l'area vasta, e quindi ha una conurbazione molto più grande. Senta, sarebbe bello la Sardegna, che ha una cultura straordinaria, addirittura avete anche una lingua diversa da tutti gli altri paesi europei, sarebbe bellissimo. E qual è il messaggio della vostra candidatura? Cioè, se lei dovesse comunicare perché Cagliari potrebbe essere capitale della cultura a un cittadino di, che ne so, di Lisbona o di Varsavia? Ma perché credo che nel nostro progetto di candidatura, che abbiamo interpretato più come un processo che solo come un progetto, e quindi come un processo di sviluppo in chiave molto interculturale, multiculturale, anche con una risonanza europea, stiamo attuando un processo di riscrittura dei paesaggi, e io credo che sia Cagliari che la Sardegna, come lei ha ricordato, sono rimasti anche abbastanza isolati ai margini rispetto ai grandi discorsi e scenari degli ultimi linguaggi più contemporanei. Però questo punto di debolezza credo possa essere anche un punto di forza che abbiamo reso centrale nel nostro progetto, nel quale ci immaginiamo di avviare tutto un percorso di residenza, di produzione, di radicamento di nuovi linguaggi, di nuovi modi di essere negli spazi, e in questo senso credo che Cagliari abbia dei numeri quasi unici. Senta, assessore, noi le facciamo l'in bocca al lupo con l'impegno, è una cosa che andrà avanti ancora per qualche mese, di rivisitare queste città italiane, capirle meglio, è un'occasione anche per noi tutti di riscoprirle, e quindi a presto. Intanto, arrivederci, salutiamo e ringraziamo Andrea Piana, che ha scritto con noi il programma, così come Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Rocella in regia oggi. Noi ci sentiamo sabato prossimo. Alessio Maurizi, Carlo Gabardini, e salutiamo tutti quelli che ci ascoltano in podcast. La mia ricetta per salvare l'Italia. Di poche ore la notizia che si possono scaricare dalle tasse i libri, l'acquisto dei libri. Fateci scaricare dalle tasse anche solo per un anno le spese del dentista, o le spese dell'avvocato, o le spese delle vacanze, e vediamo che succede. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore.